辅音的发音。双唇音 B B B B Bandiera Bandiera Banana Banana Penna Penna Pera Pera 练习 Pena Pena Bene Bene Palo Ballo Ballo Ballo Pollo Pollo Bollo Bollo Pila Pila Birra Birra Puro Puro Burro Burro Pane Pane Balena Balena Pipa Pipa Bimba Bimba Pero Pero Bello Bello Pino Pino Binocolo Pinocolo Il pino è bello. Il babbo è buono. Il pollo è buono. 谚语 Proverbi. Le buone parole trovano buon luogo. Passata la festa, gabbato lo santo.